tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La minaccia degli Stati Uniti alla Corea del Nord, l'azione militare è un'opzione, la pazienza sta finendo, dice il segretario di Stato. Voucher, addio, il governo riunito per decidere la sorte dei buoni lavoro, la CGIL già festeggia, Salvini dice il risultato sarà il lavoro nero. Ancora aperto lo scontro tra 5 Stelle e PD su Minzolini, intanto Grillo annulla la candidatura a sindaco uscita dal voto online a Genova. Uccisa una donna in Calabria, l'arrestato rischia il linciaggio, assalto all'auto dei carabinieri, sfondato il lunotto posteriore. Salso Maggiore, il sindaco del PD contro l'accoglienza dei richiedenti asilo negli alberghi, speculazione e voracità, dice. Prima applicazione del DASPO per i quartieri, a Genova si pensa all'allontanamento degli writer dal centro. Calcio, i quarti di Champions, nei sorteggi la Juventus pesca il Barcellona, dopo l'uscita della Roma, i bianconeri, soli italiani in Europa. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la pagina Facebook di Radio 24 e quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta, quindi collegatevi se oltre a sentirci volete anche vederci e scriverci naturalmente e commentare la puntata in diretta anche là. In apertura andiamo all'estero, gli Stati Uniti minacciano un'azione militare contro la Corea del Nord. In diretta da Tokyo il corrispondente del Sole 24 Ore, Stefano Carrere. Stefano, buongiorno, dacci un quadro, vai. Sì, buongiorno. Già ieri qui a Tokyo il segretario di Stato Rex Tillerson aveva anticipato una linea dura degli Stati Uniti verso la Corea del Nord. Aveva detto che 20 anni di politica americana verso Pyongyang erano stati un fallimento. E oggi a Seoul il segretario di Stato ha addirittura detto appunto di che gli Stati Uniti non escludono una opzione militare contro la Corea del Nord. Una cosa che ha impressionato, una cosa anche un po' sconcertante per un motivo particolare, cioè Tillerson, che non ha una grande esperienza di politica estera, entra in un campo minato non solo nei confronti della Corea del Nord ma anche nei confronti della Corea del Sud. Ricordiamo che la Corea del Sud ha appena destituito la presidente Park e è in campagna elettorale per le elezioni che si terranno il prossimo 9 maggio e vari partiti stanno pensando a una linea più morbida e non più dura verso la Corea del Nord, tanto più che appunto la minaccia più diretta in caso di conflitto bellico ovviamente è per la Corea del Sud. In più la Cina ha avviato un semiboicottaggio economico della Corea del Sud perché Corea del Sud e Stati Uniti hanno deciso di installare un avanzato sistema antimissilistico americano che Pechino considera una minaccia per la sua sicurezza e quindi la situazione è molto complicata. Comunque dopo la Corea del Sud Tillerson andrà a Pechino e lì si vedrà insomma quali saranno gli sviluppi, ma sicuramente la Cina ha altre idee. Situazione molto complicata, di sicuro crescenti in Asia orientale. A voi la linea. E ti ringrazio, grazie dunque a Stefano Carrere, corrispondente del Sole 24 Ore da Tokyo, per questi aggiornamenti. Prima di passare alle altre notizie ce n'è una che arriva da Parigi in questi minuti. Un uomo ha sgozzato il padre e il fratello questa mattina nella Rue de Montreuil a Parigi, vicino alla Bastiglia, ed è stato subito arrestato dalla polizia. C'è massima prudenza sul movente dell'assassino, che sembra un dramma familiare, ma secondo una fonte di polizia citata da Le Figaro, l'individuo avrebbe gridato Allah Akbar al momento di passare all'azione. Vi sapremo dare maggiori aggiornamenti su questa vicenda appena evidentemente ne avremo. Veniamo intanto alle vicende italiane, a partire dal Consiglio dei Ministri di oggi dedicato ai voucher. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, la notizia di pochi istanti fa, via libera del governo al decreto sui buoni lavoro e sugli appalti, provvedimento che di fatto cancella i voucher. Il testo recepisce le conclusioni dei lavori della Commissione Lavoro, che ha approvato un emendamento in tal senso col voto favorevole del Partito Democratico e di Sinistra Italiana. Sui voucher il testo della Commissione Lavoro della Camera prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 che permette di utilizzarli a chi li ha già acquistati, acquisto che sarebbe consentito fino all'entrata in vigore del decreto legge. L'accelerazione di governo e maggioranza sui voucher dovrebbe rendere inutile il referendum già fissato per il 28 maggio. Lo conferma la stessa CGIL proponente il referendum. Nel momento in cui il decreto sarà trasformato in legge considereremo questo un gran risultato, dice la Camusso. Contro la cancellazione dei voucher i moderati della maggioranza, parti delle opposizioni e molte associazioni imprenditoriali. All'ordine del giorno vi sono anche una serie di decreti legislativi, tra cui la delega della riforma delle editoria su crisi aziendali e prepensionamenti dei giornalisti. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. E resta in primo piano sul fronte politico il voto di ieri sulla decadenza di Minzolini. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, ero pronta a bere la cicuta, ma ora mi dimetto. Augusto Minzolini commenta così il voto di ieri in Senato, che ha respinto la decadenza anche con i voti del PD. Sono stato salvato da un moto di coscienza e ringrazio quelli che lo hanno avuto senza pregiudizi, senza fanatismi ideologici. Adesso però scrivo la lettera di dimissioni al Senato. Non mi va di ascoltare la solita solfa, la solita storia di quelli che gridano vuole restare appiccicato alla poltrona. Ci sarà un iter e deciderà il Senato. Ricordiamo infatti che Palazzo Madama deve votare le dimissioni del senatore di Forza Italia e potrebbe anche respingerle. All'interno del PD però non tutti sono soddisfatti. Michele Emiliano rispetta il voto di Palazzo Madama, ma dice mi ha addolorato, mentre Luigi Zanda risponde ai 5 Stelle che l'accusano di voto di scambio con Luca Lotti. Gravissimo, dice Zanda, che il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio inviti i cittadini a manifestare in modo violento. Ma il voto rivela anche un altro aspetto, un distacco tra parlamentari e PM. L'asse che ha salvato Minzolini è tra garantisti e falchi per riaffermare il primato della politica sulla magistratura. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento a queste vicende, tra l'altro dedicata all'analisi del nostro Daniele Biacchessi del venerdì. È accaduto che in poche ore il Parlamento ha respinto la mozione di sfiducia contro il ministro Lotti del PD e ha salvato dalla decadenza il senatore Minzolini di Forza Italia. Agli esponenti del Movimento 5 Stelle e anche a molti osservatori di politica è parso come uno scambio politico, una sorta di nuovo patto del Nazareno. La verità è che Lotti non ha avuto bisogno dell'uscita dall'aula di Forza Italia, mentre i voti di 19 senatori del PD e dei 23 alfaniani sono risultati decisivi per Minzolini. Ma il fatto grave dell'atto politico è un altro. Salvando la decadenza di Minzolini, il Parlamento praticamente rinnega se stesso almeno due volte, perché non applica la legge Severino che nel 2012 inserì l'incandidabilità per i parlamentari condannati in via definitiva con pene superiori a 2 anni, perché smentisce la precedente delibera della Giunta per le elezioni e l'immunità, aveva applicato la legge Severino con il via libera alla decadenza di Minzolini, condannato a 2 anni per peculato e uso indebito della carta di credito della RAI. Quello tra politica e giustizia è dunque uno scontro che dura da almeno mezzo secolo e ha coinvolto nel tempo maggioranze di ogni tendenza, governi tecnici, esecutivi di centrodestra, di centrosinistra, ogni tentativo di rendere il nostro un paese normale dove le diverse istituzioni si rispettano per il bene comune è risultato purtroppo vano. C'è un altro fronte in queste ore che riguarda più specificatamente i 5 Stelle e le scelte per le candidature, in particolare a Genova. A Genova non sarà Marika Cassimatis il candidato sindaco dei 5 Stelle nelle prossime elezioni comunali. Con una decisione che fa già discutere, infatti oggi Beppe Grillo ha tolto il simbolo del movimento alla vincitrice delle comunarie di martedì scorso e alla sua lista. Secondo il comico, quasi tutti i componenti della lista, compresa la Cassimatis, avrebbero tenuto comportamenti contrari ai principi del movimento e ne avrebbero danneggiato l'immagine attaccando i portavoce e condividendo le posizioni dei fuoriusciti. Se qualcuno non capirà questa scelta, vi chiedo di fidarvi di me, scrive sul suo blog Grillo, che per oggi ha indetto un nuovo voto. Questa volta gli iscritti dovranno scegliere se non presentare liste a Genova o se presentare la lista arrivata seconda, quella guidata da Luca Pirondini, espressione dell'ala ortodossa del movimento. La mia lista, uscita vincitrice da una votazione democratica, è stata sconfessata da Beppe Grillo. Ne prendo atto, è il primo commento della Cassimatis. Grillo parla di democrazia ma poi annulla le primarie perse, attacca invece il Partito Democratico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo all'estero. Mezzo secolo dopo la guerra dei 6 giorni che ha posto le basi dell'attuale equilibrio armato tra Israele, la Siria e il Libano, una drammatica battaglia aerea si è compiuta la scorsa notte tra la Siria centrale e le alture del Golan. Israele ha utilizzato per la prima volta il sistema antimissile Arrow 3. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate siriane sostiene di aver abbattuto un jet militare israeliano, di averne colpito un altro sopra la regione di Burej, vicino al confine con il Libano. Israele nega ogni danno, confermando invece l'operazione aerea compiuta da una squadriglia di caccia che avrebbe colpito obiettivi in Libano e Siria, spingendosi, pare, fino alla regione di Palmira per poi rientrare dal Golan sulla valle del Giordano. Se Israele tace sulla natura precisa dei bersagli, conferma invece della prima volta sia l'attacco in territorio siriano, sia l'impiego del sistema antimissile sviluppato congiuntamente agli Stati Uniti, che viene considerato capace di abbattere missili balistici nella fase extraatmosferica fino alla fascia dei satelliti militari. Basandosi su imprecisate fonti arabe, il sito Inet scrive che gli aerei israeliani avrebbero colpito in Siria sistemi sofisticati di combattimento destinati agli Hezbollah libanesi e che l'uso del sistema Arrow 3 sarebbe stato deciso per impedire che uno dei missili all'inseguimento dei caccia cadesse all'interno del territorio israeliano. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E altre notizie che arrivano dall'estero: è di almeno 31 morti il bilancio di un bombardamento aereo che ha colpito un barcone che trasportava migranti somali nei pressi del Mar Rosso davanti alle coste dello Yemen. Lo riferiscono le Nazioni Unite. Secondo le fonti dei ribelli, tra le vittime figurano donne e bambini. Non è chiaro chi abbia effettuato il bombardamento. Il tutto sarà celebrato a Roma la settimana prossima, ma iniziano già oggi le iniziative per ricordare la firma dei trattati di Roma, quelli che sostanzialmente dettero vita all'Unione Europea. Sentiamo. Il 25 marzo è ormai alle porte, le celebrazioni per i 60 anni dei trattati di Roma entrano nel vivo. Questa mattina nell'aula di Montecitorio la conferenza straordinaria dei presidenti dei parlamenti dell'Unione Europea, una cerimonia che nel pomeriggio proseguirà a Palazzo Madama e che si è aperta sulle note dell'orchestra giovanile del coro del Teatro dell'Opera di Roma. Le posizioni anti-Europa non sono lungimiranti perché non danno soluzioni alternative, ha detto la presidente della Camera Boldrini nel suo indirizzo di saluto. Dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi che la storia dell'integrazione europea è davvero un'avventura straordinaria. Vogliamo un'Europa a più velocità ma senza chiusure, ha detto dal canto suo Romano Prodi. Siamo di fronte alla crisi delle istituzioni europee, ha detto, ma occorre reagire. Abbiamo forse bisogno di altre umiliazioni per poter reagire? Di altre sconfitte per capire che solo uniti possiamo essere protagonisti della nuova globalizzazione? Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Cambiamo decisamente argomento e occupiamoci di musica. Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Non buone notizie per Luciano Ligabue. Luciano Ligabue che deve interrompere il tour Made in Italy Palasport 2017. Perché? Perché gli hanno diagnosticato, così scrive lui stesso sui suoi social, la malattia professionale di chi canta, un polipo intracordale che è interessato alla corda vocale sinistra e che non gli permette di cantare. Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Le prossime date vengono posticipate a settembre e ottobre, vedremo come andranno le cose. Nel frattempo c'è un tour che va avanti e che inizia un tour italiano, è quello di Ed Sheeran. Debutto mondiale per il tour di Ed Sheeran al Palalpi Tour di Torino per la prima delle due date italiane del musicista inglese. Due sole tappe già sold out tre minuti dopo l'inizio delle vendite online e quasi 25.000 biglietti venduti. Dopo una lunga attesa, i fan della star britannica dovranno ora aspettare fino all'estate del 2018. Dovrebbe infatti suonare allo stadio di San Siro a Milano. Capelli rossi e faccia da ragazzo della porta accanto, classe 1991, nazionalità inglese ma di origini irlandesi, Ed Sheeran scrive e suona le canzoni con la sua chitarra. La scaletta del primo concerto italiano è cominciata con Castle on the Hill, tratto dal suo ultimo lavoro Divide, con migliaia di ragazzi sotto il palco che non hanno mai smesso di cantare con lui. I'm on my way. L'album Divide rappresenta un record assoluto in 102 paesi con numeri incredibili in tempi di crisi come i nostri. Disco d'oro in Italia in una sola settimana, ha venduto 4.300.000 copie, il primo posto nella hit parade di decine di paesi, ha registrato più di 600 milioni di streaming su Spotify, Apple e Deezer e più di 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Dopo l'Italia, il tour mondiale di Ed Sheeran toccherà la Svizzera, la Germania, la sua terra natale, la Gran Bretagna, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia, il Belgio e l'Irlanda. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, adesso parliamo di calcio. Voglio rassicurare un ascoltatore affezionato che è Davide da Mantova. Non mi offendo se dice c'è chi va a Barcellona e chi va a casa invece, perché ha fatto questa battuta. Carlo Gento ovviamente ce l'ha col mio essere dedicata romanista, dedicata decisamente a me. Detto ciò, abbiamo il quadro dei quarti di finale di Champions, no? Sì, è stata un'urna bizzarra. Tra l'altro un ex juventino, non molto rimpianto, Ian Rush, ha estratto queste fatidiche palline e ha messo contro le quattro grandi favorite, perché la Juventus giocherà con il Barcellona, prima partita in casa. Barcellona reduce da quella remontata storica con il Paris Saint-Germain, e dunque ad esempio Bonucci, che voleva appunto affrontare il Barça per prendersi una rivincita della finale di 2 anni fa, è stato accontentato. Non so come l'abbiano presa altri tifosi juventini, ma lo scopriremo in tutti i convocati. Poi c'è Bayern Monaco, Real Madrid e ovviamente le quattro underdog che si affrontano: Borussia Dortmund, Monaco squadra molto pericolosa che ha fatto fuori il City, Atletico Madrid, Leicester dell'ex Ranieri. Questi gli accoppiamenti partoriti dall'urna della Champions League, e una Juventus che si prepara ad una grande doppia sfida con e che rimane l'unica italiana in Europa, tra l'altro. Voi siete andati a casa, mio caro Simone, come ti diceva l'ascoltatore di qui sopra, e dunque la remontata alla Roma, che era una remontadina, perché bastava fare un altro gol con Lione e si andava avanti. Invece... Oppure non prenderne uno, ma comunque... Oppure non prenderne uno, mettila come vuoi, 4-2 all'andata, 2-1 al ritorno, va avanti l'Olympique Marsiglia e la Roma... Il Lione, sì. Lione. No, prego, figurati. L'Olympique Lyonnaise. L'Olympique Lyonnaise. E via Roma, così. La Roma starà a guardare. Via. Grazie, via. Carlo. Grazie, ciao, Carlo Simone. Genta. Ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Adesso una pausa, il traffico, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Mentre vi ricordo che siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. E c'è il numero per gli sms e i messaggi su WhatsApp, 349-238-6666. Iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da Salso Maggiore, splendida località termale, dove però il sindaco è un po' imbestialito per l'accoglienza, per il tema dell'accoglienza dei migranti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della minaccia arrivata dagli Stati Uniti alla Corea del Nord. L'azione militare è un'opzione, dicono, dei voucher. Il governo ha appena varato il provvedimento che sostanzialmente li abolirà, dello scontro tra 5 Stelle e PD e di quello che succede a Genova per quanto riguarda la candidata del Movimento 5 Stelle a Genova. Ci siamo occupati di calcio e di musica, adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da Salso Maggiore, siamo in provincia di Parma. Salso Maggiore, tra l'altro, splendida località termale, la conosciamo tutti perché ha sempre ospitato le finali di Miss Italia. Siamo in linea col sindaco Filippo Fritelli, però per parlare di tutt'altro. Buongiorno Fritelli, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, per parlare di migranti, di accoglienza, di profughi, richiedenti asilo e così via, perché a quanto pare c'è qualche problema innanzitutto di concentrazione, in secondo luogo di quello che abbiamo sempre raccontato e spesso raccontato da questi microfoni, di scavalcamento, per così dire, dei sindaci da parte dei prefetti. Ho capito bene, Fritelli? Sì, il tema è esattamente questo, perché dal 2014 che è cominciata questa esperienza, diciamo così, dovuta prima al progetto Mare Nostrum e quindi al progetto di accoglienza dei migranti, che ha visto nelle prefetture come dire, ruolo principale, no, di tutta questa operazione, che sono andate via via a collocare sul territorio nazionale, divise per province, insomma, i vari richiedenti asilo, sì, che sono arrivati sul nostro territorio, sì, avendo però un ruolo assoluto, e quella che è sempre stata poi la mia battaglia, anche a discapito, soprattutto a discapito dei comuni e dei territori. Perché nel mio caso, nello specifico, si è formata una, come dire, situazione molto particolare in cui alcuni proprietari di strutture alberghiere o ex alberghiere hanno partecipato direttamente ai bandi della prefettura accreditandosi, e quindi per l'ospitalità, e si sono viste, diciamo, assegnatarie di una serie di richiedenti asilo che però, sì, proporzionate alle richieste, sono diventate assolutamente squilibrate rispetto al numero di residenti. Sì. Fritelli, Fritelli, c'è un esempio, c'è la zona che non so se è propriamente una frazione o che cos'è, di Tabiano, che è altro punto tipicamente termale dove si raccolgono un po' di alberghi eccetera eccetera, dove su 500 residenti ci sono 100, sono ospitati 150 richiedenti asilo, che è, diciamo, un numero, sì, no? Infatti il tema del mio comune nello specifico è questo. Tabiano è tecnicamente una frazione del comune, ha 500 residenti, ha un suo stabilimento termale e ha una storia lunga e nobile in tema di termalismo, no? L'acqua a base di zolfo, le cure termali dei bambini e degli anziani, delle patologie respiratorie, e ci sono delle realtà ricettive alberghiere che in questa località si sono negli anni sviluppate. Hanno vissuto di termalismo sociale, sì, per tanti anni, poi alcune sono andate in crisi, soprattutto a partire dai primi anni 2000. Oggi ci sono alcune, come dire, strutture vuote che via via si sono accreditate ai bandi della prefettura, e quindi hanno creato una situazione assolutamente insostenibile dal, sì, punto di vista dell'equilibrio di quella comunità e soprattutto nel rapporto con quelle che sono le attività che ancora oggi vivono, vanno avanti e con mille sacrifici su quello che è invece il settore termale. Certo, ci sono, cioè, gli alberghi che funzionano comunque si trovano accanto degli alberghi che non funzionano o sono chiusi, nei quali l'unica attività sostanziale è quella dell'accoglienza dei profughi pagati alla prefettura, no? È esattamente così. Ed esattamente, e questo crea, punto, un conflitto, sì, crea un conflitto evidente. Ma... che... Come se ne esce? Sindaco, mi scusi, brevemente, come se ne esce secondo lei? Allora, se ne potrebbe uscire attraverso delle decisioni politiche e dei limiti che devono essere messi, perché è chiaro che da una parte c'è il bisogno della prefettura di collocare delle persone e dall'altra ci sono delle domande che si affacciano costantemente sulla scena, e quindi c'è un incrocio, no, tra domanda e offerta col passare del tempo sta davvero diventando un circolo vizioso, no? E soprattutto sta diventando potenzialmente pericoloso. E questo lo dico in chiave non razzista, non assolutamente legata. Sì, lei è del PD, tra l'altro, no? Io sono del PD, sì, legata invece a un principio di integrazione e di, sì, e di anche inclusione di queste persone, che dal mio punto di vista dovrebbe essere fatto diversamente. Cioè io dico sì all'inclusione, ma sì ad un'inclusione sensata. Sì ad un'inclusione che passa attraverso la filiera del pubblico, che vede i comuni coinvolti, ed esistono dei progetti che storicamente si sono affermati a livello, sì, nazionale, che sono i famosi progetti SPRAR. Gestiti dai comuni. In 10 secondi, sindaco, perché siamo in chiusura con lei, perché voi non l'avete attivato lo SPRAR? Noi abbiamo lo SPRAR distrettuale, che era stato attivato, okay, già di distretto sociosanitario, che era stato attivato già da 6-7 anni, ed era quel processo storico di inclusione dei migranti quando gli arrivi erano contenuti. Oggi i nuovi SPRAR, e quindi le aperture che devono essere autorizzate dal Ministero dell'Interno, sì, ci sono, ma non sono ancora determinate nei tempi, nei modi e negli spazi per cui occorrerebbe oggi riposizionare lo SPRAR. Noi oggi ci candidiamo a gestire noi come comune un progetto di integrazione pubblico-istituzionale. Sì, anche per evitare situazioni come quella che abbiamo visto. Grazie. Esatto, grazie. Per evitare questo. Questa è la nostra proposta, speriamo sia accolta. La ringrazio. Grazie Filippo Fritelli, sindaco di Salso Maggiore. Non vi vaccinate? Siete di quei teorici del complotto secondo i quali tutti i vaccini fanno male e provocano gravissime malattie, uccidono, generano l'autismo? Ebbene, succede anche che ci si ammali di malattie gravi, come è il caso del morbillo, che noi, lo ripetiamo sempre, tendiamo a considerare una malattia esantematica dei bambini, ma è una malattia che in alcuni casi può arrivare ad uccidere, a provocare l'encefalite e gravi complicazioni. Succede in vari luoghi, avete visto ieri i dati, più 230% in Italia dall'inizio dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Casi, situazioni particolarmente difficili in Piemonte, ve lo abbiamo raccontato nelle settimane scorse, e apprendiamo anche a Pescara. Giustino Parruti, primario del reparto malattie infettive all'ospedale civile di Pescara, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, 25 casi gravi. Sì, abbiamo ricoverato più o meno dall'inizio del mese di febbraio ad oggi, l'ultimo questa notte, tra il reparto di pediatria e il nostro, 36-37 pazienti che avevano bisogno non di isolamento senso stricto, ma proprio di un'assistenza per il quadro clinico di presentazione, che pur non avendo mai richiesto l'intervento di tecniche rianimatorie, né tantomeno del rianimatore, però ci ha chiesto di poter osservare per almeno 72-96 ore la persona. Quindi si è trattata di una vera e propria, diciamo, escalation in termini clinici, perché è stato nel 60-70% dei casi interessato a quella fascia di popolazione, diciamo, adulta, tra i 25 e i 35-40 anni, che fino a qualche tempo fa era stata coperta dall'immunità di gregge legata, sì, all'alta quota vaccinale dei più piccoli. Sì, è quello che abbiamo raccontato anche nelle settimane scorse, occupandoci di quello che succede in Piemonte e anche di quello che è successo in Toscana. È esattamente quella fascia di popolazione, quella colpita in questo momento. La copertura per, come dire, l'immunità di gregge è intorno al 95%. A Pescara abbiamo dei dati che lei sappia? Come no, i nostri dati sono in linea perfetta con quelli nazionali, purtroppo, nel senso che eravamo sopra il 95% quando sono arrivate le fandonie, diciamo, di rimbalzo della storia Wakefield, e quindi purtroppo c'è stata, nonostante un impegno enorme da parte della nostra ASL, che è tra quelle più attive, diciamo, nella ricerca dell'attingimento degli obiettivi di copertura vaccinale, ma c'è stata purtroppo una discesa intorno all'85%, però ha creato un fenomeno che ha creato una massa critica di suscettibili, i quali purtroppo poi quando c'è stata una miccia di innesco, come in questo momento in cui la circolazione sia sul territorio italiano che su quello europeo è fortemente aumentata, teniamo presente che c'è un'epidemia in Romania di proporzioni veramente importanti, ha varcato la soglia del nostro territorio, evidentemente con un innesco molto ampio che ha scoperto gli anziani, tra virgolette. La ringrazio, grazie a Giustino Parruti, primario del reparto malattie infettive all'ospedale civile di Pescara, e vediamo se siamo in grado di collegarci con Gianni Crivello, che è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Genova, non prima di aver risposto ad un paio di domande. Innanzitutto l'ascoltatore che ci dice, quando abbiamo parlato del sindaco di Salso Maggiore, perché se lui è del PD che cosa significa? Che non deve ben governare l'immigrazione? Non abbiamo detto questo, abbiamo detto che c'è un problema che riguarda l'immigrazione di questo paese e non è, come dire, un sollevare le barricate anche per motivazioni politiche, perché normalmente, come dire, è un po' più propenso il PD come partito all'accoglienza, e lo sapete benissimo, non è che vi stiamo raccontando niente di straordinario. Gianni Crivello, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, per parlare di quest'idea, il decreto Minniti sulla sicurezza, insomma i provvedimenti di Minniti sulla sicurezza consentono ai sindaci, ai comuni, una maggiore azione per quanto riguarda le operazioni che si possono permettere sulla città. Tra queste c'è il cosiddetto DASPO, è un termine mutuato dallo sport, che di fatto è il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. In questo caso significa che alcune persone non si possono più avvicinare a determinati quartieri o addirittura alla città. Nella fattispecie ci state pensando per gli writer, ho capito bene? Beh, il discorso ovviamente, poi per ragioni di spazio, un po' più complesso, nel senso che questa è una domanda che ci è stata posta a conclusione dell'incontro con la stampa. Noi con la sovrintendenza di Genova, con il responsabile, abbiamo fatto questo tavolo e vorremmo poi coinvolgere tutta una serie di altri enti, la prefettura, la questura, per costruire un lavoro sinergico, perché noi vogliamo gridare, un grido, una sorta di denuncia. La nostra città è splendida, bellissima, però tutta una serie di aspetti che riguardano l'inciviltà stanno creando dei problemi non da poco ai cittadini genovesi, ma le migliaia e migliaia di turisti, che non sono solo guardi i graffiti, sono anche le affissioni abusive, una serie di lavori che non vengono comunque, come dire, non rispettano le norme, per cui potenziare i controlli, un lavoro sinergico tra le forze dell'ordine. E poi mi è stato chiesto, ho detto, ma se nel caso in cui le norme prevedono, legate al DASPO, la possibilità anche di utilizzare questi strumenti, questo non lo escludiamo, ma come dire, il punto di partenza è un lavoramento più complessivo. Cioè, certamente, mi dice solo una cosa, dato che veramente abbiamo pochissimo tempo, uno fa un graffito sul muro, il comune decide per 48 non ti puoi avvicinare a quel quartiere, come lo controlli? Beh, questo è un ragionamento che lo verificheremo naturalmente in sinergia con gli altri organismi, perché da soli non ce la possiamo fare. Ovvio. Quindi dobbiamo fare un ragionamento, poi anche il coinvolgimento dei cittadini, che non si debbono naturalmente sostituire alle forze dell'ordine, è anche un po' quello dal punto di vista culturale, ma vogliamo fare un ragionamento anche con i privati. La stessa sovrintendenza ha detto, io sono per accelerare, velocizzare naturalmente i permessi nei casi in cui naturalmente non si tratti di manufatti di pregio o quant'altro. Ovvio. La ringrazio, grazie a Gianni Crivello, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova. Come capite, ci sono queste previsioni nuove, appunto, dai provvedimenti varati da Minniti, bisogna vedere come i sindaci decideranno di applicarle. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Lo riprendiamo parlando di province, perché che cosa succede? Succede che, come sapete, c'è stata una legge che ha modificato funzioni, dotazioni economiche delle province. Era una legge transitoria in attesa che venisse approvata la riforma costituzionale. La riforma costituzionale non è stata approvata e quindi le province adesso si trovano senza soldi, battono cassa, hanno bisogno di denaro per mantenere banalmente scuole e strade. A tra poco. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. È stato varato il provvedimento del governo che per l'abolizione dei voucher e per evitare sostanzialmente il referendum. Useremo le prossime settimane per rispondere ad un'esigenza che certamente l'eliminazione dei voucher non risolve, per una regolazione seria del lavoro saltuario occasionale, parole di pochi istanti fa del premier Paolo Gentiloni. Le notizie che arrivano da Parigi, non ci sono grandi aggiornamenti sulla vicenda che vi abbiamo dato in apertura. Un uomo ha ucciso il padre e il fratello in strada. La polizia ritiene che si tratti di una strage familiare, ma l'uomo avrebbe anche gridato frasi legate all'Islam radicale. La minaccia degli Stati Uniti alla Corea del Nord, l'azione militare è un'opzione, la pazienza sta finendo, dice il segretario di Stato. È stata uccisa una donna in Calabria, l'arrestato ha rischiato il linciaggio, assalto all'auto dei carabinieri, sfondato il lunotto posteriore, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. In realtà non abbiamo il tempo di affrontare la questione delle province, però fatemi dare solamente una risposta ad un ascoltatore che giustamente dice: siete stati voi di Radio 24, così come il Sole 24 Ore, a fare trasmissioni sull'abolizione delle province e adesso dite che battono cassa perché devono mantenere scuole e strade. Guarda che non c'è nessuna contraddizione, nel senso che è stata fatta una riforma, la riforma di Del Rio, per cambiare le province, che era una riforma in vista una riforma costituzionale che avrebbe dovuto abolirle, appunto perché le province possono essere abolite solo con una riforma costituzionale. Dato che la riforma costituzionale non è passata, le province hanno conservato sostanzialmente quello che è che sono le loro competenze, tra cui ci sono appunto delle scuole, ci sono una serie di strade, le strade provinciali, eccetera eccetera, e per, come dire, mantenere queste scuole, mantenere queste strade e così via servono dei soldi. servono dei soldi proprio perché le province in realtà non sono state abolite, cioè rimane in piedi l'idea di abolirle, cioè la possibilità di abolire le province, però nel momento nel quale non sono abolite e hanno delle competenze, queste competenze in qualche modo vanno sfruttate e utilizzate. Dice il sindaco di Vicenza, che è anche appunto presidente della provincia e presidente delle province italiane, che mancano 651 milioni di euro. Le 76 amministrazioni che gestiscono appunto 3.600 edifici della scuola secondaria e 100.000 chilometri di strade hanno presentato su questo tema una denuncia in procura addirittura per tutelarsi nel caso succeda qualcosa. Pensate, gli, i dipendenti della provincia di Vibo Valentia sono senza stipendio da mesi. Come capite è stato un gran pasticcio e il tema è esattamente questo. Gianluca Pasqui, sindaco di Camerino, buongiorno. Allora, a lei e a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Allora, eccoci qua. Come i nostri ascoltatori sanno, sono ormai 3 settimane che andiamo avanti. Ogni giorno ci occupiamo, dedichiamo qualche minuto al, ai comuni colpiti dal terremoto, non solamente ai comuni, dalla settimana prossima iniziamo anche con le attività produttive, nello specifico andremo a sentire nei territori come stanno andando le cose e possiamo assicurarvi che dai segnali che riceviamo le cose stanno andando male. Se volete segnalarci qualcosa e siete di quelle zone, effetto giorno @radio24.it. intanto le chiedo, sindaco, come vanno le cose da voi? Camerino è una città drammaticamente colpita dall'evento sismico, quindi abbiamo avuto un 6.5 che ha fatto dei danni veramente molto molto importanti. Una città che ha ancora alle sue porte l'esercito, una città che è completamente in zona rossa, all'interno non ci sono né persone né attività, però abbiamo iniziato una un lavoro incessante che porterà ad una messa in sicurezza. È chiaro che il lavoro che possiamo fare è un lavoro importante, ma è anche un lavoro che deve rispettare le norme dello Stato italiano, e nel rispettare le norme dello Stato italiano ci troviamo di fronte ad una burocrazia che secondo me sta rallentando in maniera importante, è una macchina che ce la sta mettendo veramente tutta. Quindi credo che la problematica è là dove bisogna intervenire, andare a sì, comprendere bene che lo straordinario, l'eccezionale, non può essere curato con norme ordinarie. Allora, sindaco, io la ringrazio perché così come abbiamo avuto problemi ieri con un sindaco dell'Aquilano, anche con lei abbiamo dei problemi di connessione, evidentemente insomma le cose vanno male da questi comuni delle zone terremotate, oppure naturalmente magari si gira per le frazioni, si girano a verificare delle cose e quindi i telefoni non funzionano. Grazie al sindaco Gianluca Pasqui, sindaco di Camerino e siamo nelle Marche, appunto pesantemente colpito dal terremoto. Siamo quasi in chiusura, un saluto caro all'ascoltatore che per praticamente l'intera trasmissione, sempre lo stesso, ha continuato ad inviare insulti. Io mi chiedo e continuo a chiedermi, ma ragazzi, ma cosa vi passa per la testa? Ma che, ma pensate davvero che uno vada a leggere queste cose, che si interessi di queste cose, che dobbiate insultare in questo modo? Fate delle critiche nel merito, le critiche nel merito sono benvenute, le leggeremo, ce ne interesseremo, ne parleremo, ma che siano nel merito, niente insulti, niente parolacce. Per quello, ragazzi, ci sono i colleghi Giuseppe Cruciani e David Parenzo che sono bravissimi a gestire questa roba. Non è questa la sede, non è questa la trasmissione. Chiudiamo qua, grazie per l'ascolto, ci risentiamo, anzi alla fine, dopo il traffico e Platero per i saluti.